Il dono disinteressato, parte 2. Punto 4. La redenzione del corpo. Gli sforzi dello spirito umano legati all'aspirazione alla bellezza della persona e alla bellezza della comunione affrontano una soglia. Su questa soglia l'uomo inciampa. Invece di ritrovare la bellezza, la perde, ne crea soltanto un assaggio. L'uomo riempie con quegli assaggi di bellezza la sua civiltà, che non è però la civiltà della bellezza perché non è generata da quell'amore eterno con cui Dio chiama l'uomo alla vita e lo rese bello così come rese bella la comunione di persone, uomo e donna. Norwood, che aveva una grande intuizione di questa verità, scrisse che la bellezza è la forma dell'amore. Non si può creare la bellezza se non si partecipa a quella dell'amore, se non si partecipa a quello sguardo con il quale Dio, fin da principio, abbracciò il mondo da Lui creato, e in quel mondo l'uomo fu da Lui creato. Tutto ciò non significa che la nostra epoca sia priva di persone che combattono con tutte le forze. Queste non sono mai mancate. Per questo il bilancio generale della civiltà umana è comunque sempre positivo. Lo costituiscono pochi ma grandi geni e santi. Tutti loro sono testimoni di come interrompere il cerchio della mediocrità e in particolare come superare il male con il bene, come ritrovare il bene e il bello, malgrado tutte le degradazioni cui cede la civiltà umana. Come si vede, quella soglia su cui l'uomo inciampa non è insuperabile. Occorre solamente la coscienza che essa esiste e il coraggio di varcarla continuamente. In che direzione bisogna varcare quella soglia? Direi nella direzione di quella convinzione che Dio dona all'uomo un altro uomo. Nell'uomo invece gli dona tutto il creato, tutto il mondo. Quando l'uomo scopre quel dono disinteressato che l'altro uomo è, allora in qualche modo scopre in lui il mondo intero. Bisogna rendersi conto del fatto che questo dono può smettere di essere disinteressato nel cuore dell'uomo. L'uomo può diventare per l'altro oggetto di uso. Questo minaccia di più la nostra civiltà, in particolare la civiltà del mondo materialmente ricco. Allora il compiacimento disinteressato viene sostituito nel cuore umano dal desiderio di impadronirsi dell'altro e di usarlo. Tale desiderio è una grande minaccia non soltanto per l'altro, ma prima di tutto per l'uomo che vi cede. Quell'uomo distrugge dentro di sé la capacità di essere dono, distrugge in sé la capacità di essere, secondo la regola, essere più uomini, e cede invece alla tentazione di essere, secondo la regola, avere di più, avere più stimoli, più emozioni, più piaceri, il meno possibile di valori veri, il meno possibile di creativa sofferenza per il bene, la minor possibile disponibilità a pagare con se stessi per il bene e il bello dell'umanità, il meno possibile di partecipazione alla redenzione. L'altra persona, la donna per l'uomo, ovvero l'uomo per la donna, è un bene grandioso e indicibile proprio perché è redento. Spesso e giustamente la redenzione viene compresa nei termini di un grande debito che a causa del peccato grava sull'umanità. Ciò non di meno, essa è allo stesso tempo, o forse prima di tutto, la nuova donazione all'uomo e all'intera umanità di quel bene bello che gli venne donato nel mistero della creazione. Nella redenzione tutto diventa nuovo. Apocalisse 21:5. All'uomo, in un certo senso, viene ridata la sua maschilità, la sua femminilità, la capacità di essere per l'altro, la capacità dell'essere reciproco nella comunione. In questa prospettiva, le parole "Dio mi ha dato te" acquistano un senso tutto nuovo. Dio dona un uomo all'altro in un modo nuovo attraverso Cristo, in cui il pieno valore dell'uomo che egli ha avuto fin dall'inizio, che ha avuto nel mistero, nella creazione, si rivela nuovamente e nuovamente si realizza. Ogni uomo reca in sé un prezzo inestimabile. Ottiene quel prezzo da Dio, il quale lui stesso si è fatto uomo. Ha rivelato la divinità affidata per certi versi all'uomo e ha creato un nuovo ordine di relazioni interpersonali. In questo nuovo ordine, l'uomo, ancor più, è quella unica creatura sulla terra che Dio ha voluto per se stesso. Gaudium Spes 24, e al tempo stesso è quell'essere personale simile a Dio che pienamente può realizzarsi solo attraverso il dono disinteressato di sé. Ivi. La redenzione è pertanto l'apertura degli occhi umani su tutto il nuovo ordine del mondo costruito secondo la regola del dono disinteressato. È un ordine profondamente personale e al tempo stesso sacramentale. La redenzione ribadisce il sacrum dell'intero creato, conferma il sacrum dell'uomo creato maschio e femmina, e la fonte di quel sacrum sta nella santità stessa di quel Dio che si è fatto uomo. Egli, essendo il sacramento di Dio presente nel mondo, trasforma il mondo nel sacramento per Dio. Nel contesto della redenzione che è avvenuta attraverso il sacrificio del corpo e del sangue di Cristo, diventa più trasparente la sacralità del corpo umano, anche quando quel corpo è completamente deperito o calpestato, così come era deperito Cristo durante la sua passione. Il corpo umano ha la sua dignità che deriva anche da quel sacrum, sia il corpo dell'uomo che il corpo della donna. La redenzione realizzata nel corpo genera in un certo senso una particolare dimensione della sacralità del corpo umano. Questa sacralità esclude che esso possa diventare oggetto di uso, e ogni uomo, in particolare ogni maschio, è il custode di questa sacralità e dignità. «Sono forse io il guardiano di mio fratello?» domandava Caino, Genesi 4:9. Dando origine alla terribile civiltà della morte nella storia dell'umanità. Cristo si mette al centro di questa civiltà, si mette in mezzo alla domanda di Caino e risponde: sì, sei guardiano della sacralità, sei guardiano della dignità dell'uomo in ogni donna ed in ogni uomo, sei guardiano della sacralità del suo corpo. Ella deve rimanere per te oggetto di culto. Allora godrai la bellezza che Dio gli ha donato fin dall'inizio, e lei godrà insieme con te. Si sentirà sicura agli occhi di suo fratello. sarà felice del dono della sua femminilità fattole dal Signore. E allora quella eterna femminilità da Selig Weckfliche sarà nuovamente il dono intatto della civiltà umana, l'ispirazione della creatività e la fonte di bellezza che è stata fatta per risuscitare. Non per questo, forse, il corpo della donna diventa la fonte di tutte queste risurrezioni umane, la bellezza materna, quella da sorella, quella da sposa, quella bellezza che ritrova il suo particolare culmine nella madre di Dio. 5. Totus tuus. Quanto sei bella, amica mia, Cantico 1:15. Se il Cantico dei Cantici è innanzitutto il poema sull'amore degli sposi umani, allo stesso tempo e con tutta la sua concretezza è aperto ad un'enorme quantità di significati. La Chiesa si avvale delle parole del Cantico dei Cantici in liturgia, soprattutto menzionando le vergini o le donne che hanno trovato la morte da martire per Cristo. Le parole riportate parlano soprattutto di una grande illuminazione della bellezza femminile e non soltanto comunque non prima di tutto della bellezza sensuale. Parlano ben di più di quella spirituale. Si può perfino aggiungere che quest'ultima condiziona il primo. La sola bellezza sensuale non resiste di solito alla prova del tempo. Questo è particolarmente importante per l'uomo a cui Dio dona l'altro uomo, come ho potuto sperimentare tante volte nella mia vita. Dio mi ha dato tante persone, giovani e vecchi, ragazzi e ragazze, padri e madri, vedove, sani e malati. Sempre, quando me li donava, al tempo stesso me li affidava. E oggi vedo che su ciascuno di essi potrei scrivere una singola monografia. Sarebbe una monografia su quel concreto dono disinteressato che è l'uomo. C'erano tra loro persone semplici, operai della fabbrica, c'erano anche studenti e professori universitari, medici e avvocati, c'erano infine sacerdoti e persone consacrate. C'erano tra loro ovviamente uomini e donne. Una lunga strada mi ha portato alla scoperta del genio femminile, ma solo la provvidenza ha fatto sì che arrivasse il tempo del suo riconoscimento, per certi versi, della sua illuminazione. Penso che ogni uomo, a prescindere dal suo stato e dalla sua vocazione di vita, debba almeno una volta sentire le parole che ha sentito Giuseppe di Nazaret: non temere di prendere con te Maria, Matteo 1:20. Non temere di prendere con te significa, significa fa di tutto al fin di riconoscere il dono che lei è per te. Temi solamente una cosa: di non appropriarti di questo dono. Questo temi. Per tutto il tempo che lei rimane per te il dono di Dio stesso, puoi tranquillamente gioire di tutto ciò che quel dono è. Anzi, di più, dovresti fare tutto quello che sei in grado di fare al fine di riconoscere questo dono, per dimostrare a lei stessa che valore irripetibile è. Ogni uomo è irripetibile. L'irripetibilità non è una restrizione, è invece la dimostrazione della profondità. Forse Dio vuole che tu le dica proprio ciò in cui consiste il suo valore irripetibile, nonché la sua particolare bellezza. In questo caso, non temere il tuo compiacimento. L'amore di compiacimento, amor complacenzie, è e comunque può essere la partecipazione a quell'eterno compiacimento che Dio ha nell'uomo da lui creato. Se temi, giustamente, affinché il tuo compiacimento non diventi una forza distruttiva, non temerlo però in modo anticipato. Saranno i frutti a dimostrare se il tuo compiacimento è creativo. Basta guardare tutte le donne che appaiono intorno a Cristo, a partire da Maria Maddalena e dalla Samaritana, passando attraverso le sorelle di Lazzaro fino alla più santa, la benedetta tra tutte le donne, Luca 1,42. Non devi mai giudicare il senso del dono di Dio. Prega con tutta umiltà di saper essere custode di tua sorella, affinché nei limiti di radiazione della tua maschilità, lei stessa ritrovi la strada della sua vocazione e la santità che gli è destinata nei piani di Dio. Enorme la forza spirituale della donna. Una volta liberata, osa un'intrepidezza ben lungi più grande, una tale prontezza per i sacrifici a cui a volte l'uomo fa fatica a pensare. Proprio in questa consapevolezza la Chiesa ripete le parole del Cantico dei Cantici: «Oh, come sei bella, amica mia!» È giusto, infine, aggiungere che nella presente meditazione sul dono disinteressato è nascosto per certi versi un lungo cammino, un itinerario interiore che portava dalle parole che sentii nella mia giovinezza dalle labbra del mio direttore spirituale fino a quel totus tuus che mi accompagna continuamente da tanti anni. Lo scoprii nei tempi dell'occupazione, lavorando come operaio alla Solvay. Lo scoprì attraverso la lettura del trattato sulla preghiera perfetta alla Madre di Dio di San Luigi Grignon de Montfort. Era l'epoca in cui avevo già scelto il sacerdozio e lavorando fisicamente e al tempo stesso studiavo filosofia. Mi rendevo conto che la vocazione sacerdotale avrebbe messo sulla mia strada tante persone che Dio mi avrebbe affidato in modo particolare ciascuno e ciascuna di loro. Donerà e affiderà. Proprio allora sorse il grande bisogno del mio affidamento a Maria, che si esprime nelle parole totus tuus. Esso non è tanto una dichiarazione quanto una preghiera. Affinché puro fosse il mio sguardo, il mio udito, la mia mente, affinché tutto servisse alla rivelazione del bello che Dio dona agli uomini. Mi ritorna alla mente la citazione del pianoforte di Chopin di Norwich. Fui da te in quei penultimi giorni, di quel filo incompiuto, pieni come un mito, pallidi come aurora, quando la fine della vita sussurra all'inizio: io non ti logorerò, no, io evidenzierò, non logorerò, non distruggerò, non diminuirò, evidenzierò. Totus tuus, sì, bisogna essere totalmente dono, un dono disinteressato, per riconoscere in ogni persona quel dono che ella è, per ringraziare il donatore del dono di quella persona. Vaticano, 8 febbraio 1994. Nota 1. Il totus tuus di Giovanni Paolo II: ci fu un momento in cui misi in qualche modo in discussione il mio culto per Maria, ritenendo che esso, dilatandosi eccessivamente, finisse per compromettere la supremazia del culto dovuto a Cristo. Mi venne allora in aiuto il libro di San Luigi Maria Grignon de Montfort, che porta il titolo Trattato della vera devozione alla Santa Vergine. In esso trovai la risposta alle mie perplessità. Sì, Maria si avvicina a Cristo, ci conduce a Lui, a condizione che si viva il suo mistero in Cristo. L'autore è un teologo di classe. Il suo pensiero mariologico è radicato nel mistero trinitario e nella verità dell'incarnazione del Verbo di Dio. Ecco spiegata la provenienza del Totus Tuus. L'espressione deriva da San Luigi Maria Grignon de Montfort. È l'abbreviazione della forma più completa dell'affidamento alla Madre di Dio, che suona così: Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia, prede mi cor tum Maria. Trattato della vera devozione numero 266. Sono tutto tuo e tutto ciò che è mio è tuo. Ti prendo per ogni mio bene. Dammi il tuo cuore, o Maria. Cifra in dono e mistero le pagine 38 e 39.